Come vi ho detto prima della pubblicità, si torna in scena con un titolo che mi coinvolge molto perché si parla di un argomento sul quale mi soffermo spesso quando porto le notizie dai quotidiani, quando sono in rassegna stampa, cioè si parla di lavoro. Sarà uno spettacolo sul palcoscenico di ITC Teatro in via delle Rimembranze 26 a San Lazzaro di Savena per la giornata di domani, sabato 27 gennaio alle ore 21. Già dal titolo, solo quando lavoro sono felice, di e con Lorenzo Maragoni e Nicolò Fettara. Nicolò è qua al telefono con noi, mattiniero. Buongiorno Nicolò. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie intanto per questa levataccia e per la conversazione che andremo ad affrontare su una motivazione quanto mai importante che in questo momento sta vivendo gravi difficoltà, cioè il mondo del lavoro. Interessante l'approfondimento che già dal titolo va spontaneo, solo quando lavoro sono felice, cioè una idea per così dire che coinvolge la parola autosfruttamento. Allora cominciamo proprio da questo motivo di riflessione. Perché vi è un autosfruttamento, Nicolò? Ma allora, cominciamo col dire che il lavoro nel corso del Novecento ha vissuto una grande trasformazione. Siamo passati da una classe operaia che era impiegata alla macchina e che era costretta a lavorare per vivere e si impiegava in un lavoro che molto spesso non desiderava fare. Si lavorava per 8 ore e poi si tornava a casa. La distinzione tra tempo di lavoro e tempo di vita era molto netta, era molto chiara. Siamo passati invece ad un lavoro che è un lavoro in cui viene richiesta una piena disponibilità. Si lavora tutte le ore. La differenza fra tempo di vita e tempo di lavoro a questo punto sfuma, soprattutto grazie anche a dispositivi come il computer, le email, il telefono, che rendono essenzialmente il lavoratore disponibile a tutte le ore. Non si sa più quale sia la differenza tra tempo di vita e tempo di lavoro, lavorando praticamente a tutte le ore, e si finisce quindi per vivere per lavorare. Il lavoro diventa il centro dei nostri interessi, si comincia a dire e a pensare che bisogna lavorare e fare quello che si vuole fare, quello che ti piace davvero fare. Mark Fisher dice che ci sono due differenze tra il esistono due classi di lavoratori: lavoratori che sono obbligati a fare un lavoro che non gli piace, e invece un'altra classe di lavoratori che sono privilegiati, che lavorano facendo quello che davvero gli piace. Ora, sicuramente è vero che, per esempio, io faccio il lavoro che mi piace, e questo mi differenzia da un bracciante che magari appunto fa un lavoro, condizioni lavorative pessime, e fa un lavoro che non gli piace. Questo rende me un privilegiato. Allo stesso tempo però bisogna anche ammettere che amare il proprio lavoro non è una condizione neutrale, perché spesso porta ad autosfruttarsi e a fare di se stessi, a trattarsi appunto come una fonte inesauribile di valore. Non si finisce mai di sfruttarsi, appunto. Sì, in queste tue parole sappi che hai trovato un compagno di strada che ha avuto percorsi diversi dai tuoi, ma assolutamente allineato con te. Per 25 anni sono stato in cantiere, dipendente come elettricista, poi sono passato a facchino della logistica. Ho denunciato questa filosofia già da tempo, tanto più che era molto, molto, molto più difficile chiedere un giorno di riposo o ridurre l'orario di lavoro piuttosto che un'attenzione per quanto riguarda l'aspetto retributivo, già di per sé castrante e limitato, ma quando si andava a conversare o ad ascoltare o sentire quello che vi era da parte di manager, imprenditori, c'era questa modalità: l'attenzione per quello che poteva diventare tempo libero, tempo per se stessi, era veramente visto come fumo negli occhi. Più volte ho lanciato la provocazione, visto che ascoltatrici e ascoltatori in questo momento si stanno recando al lavoro, ho portato: controllate nelle vostre buste paga quanti giorni di ferie non godute avete, quante ore di permesso non godute, quante ore di roll non permesso oltre non godute, e da qui vedrete che troverete dei numeri veramente da capogiro. C'è un altro aspetto ancora che si va a unire a tutto ciò, Io ad esempio ho sempre avuto tante passioni, poi anch'io come te ho svoltato e ho deciso: no, basta, non non mi alzo più la mattina imprecando, voglio alzarmi la mattina per andare a svolgere qualcosa che mi piace, e da qui il cambiamento. Comunque ho vissuto decenni nella condizione che tu stai appunto denunciando e io ti sono molto vicino, e per quanto riguarda l'aspetto di compagni tra virgolette di lavoro, che quando si conversava, oh ma tu non fai niente dalla mattina alla sera, come fai a sapere tutte queste cose? Magari si parlava di un libro, si parlava dell'attualità, come fai a sapere tutte queste cose? Non fai veramente niente dalla mattina alla sera per avere tutto questo tempo. Quindi è veramente un gatto che si morde la coda e che porta a questo autosfruttamento. Scusa, ogni tanto faccio delle omelie quando ci sono degli spettacoli che mi coinvolgono particolarmente. È una collaborazione con Lorenzo Maragoni, qua al telefono con noi invece Nicolò Fettarappa. Allora, di dove siete intanto? Io sono di Roma, mentre Lorenzo è di Terni. Ho capito. E quindi è, da quel che ho intuito, è la prima volta che vi è questa collaborazione. Scusa, magari ho intuito male. No, è esattamente così. Io e Lorenzo ci siamo conosciuti nel 2021 durante una scuola di drammaturgia che si è svolta in più città, e durante la frequentazione di questa scuola ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di scrivere uno spettacolo insieme. Certo, questo che sia ovviamente non solo un motivo di denuncia ma anche di trasformazione in ambito di arte per quella che è una quotidianità di spettacolo e di cultura. Solo quando lavoro sono felice. ITC Teatro di San Lazzaro sarà sabato 27 gennaio 2024, cioè domani, prima dello spettacolo ci sarà alle 19:30 l'aperitivo organizzato dalla compagnia Teatro dell'Argine con le parole del teatro, e insomma quello che poi sarà un approfondimento di contenuto lo faremo a breve. Posso mettere un po' di musica? Puoi restare ancora 5-6 minuti al telefono, Nicolò? Certo, senz'altro. A tra poco, grazie. Nobody knows how high is heaven, but you can feel it here with my baby. Just a feeling it getting to you. It's just a feeling of soul going through you. Nobody knows how high we're headed. We can lay all night with my people, you did. And should you know, by you all, gonna get in touch with the people. And maybe you don't already know. We're gonna bring it until you feel it today. Quando poi mi trovo in conversazione e mi sento dire, oh, è arrivato un giovane collega, la prima cosa che ha chiesto con il titolare è quanto prende e qual è l'orario di lavoro. Ma scusa, cosa deve chiedere? Se è bello il sole è bello andare al mare, qui manca il titolare che ancora prima tu ti metta a sedere, come facevano i miei titolari, sui quali tanto ho imprecato, ma che a questo punto mi sembrano degli olivetti moderni, eh? Pensate un po' che strada sta prendendo il mondo del lavoro. Certo, deve essere l'imprenditore o il titolare che ancora prima che tu ti avvicini alla poltrona per il colloquio ti dice, bene, come da contratto nazionale collettivo del lavoro il tuo stipendio di partenza sarà questo, gli orari saranno questi, e da qui si parte con le mansioni. Yes. Che te deve chiedere il giovane? Cosa ti deve chiedere? Non so, cosa deve chiedere? Hanno massacrato, non dico un'idea di sinistra, quella ormai ce la siamo scordata, mi basterebbe una socialdemocrazia vaga e dialogante, ecco, per così dire. Non figuriamoci poi per il sindacato, qua è un concorso di colpa tra mondo lavoratore e il sindacato stesso, da cui potrei procedere ad oltranza. E quindi quando trovo questi titoli, quando trovo questi contenuti, è ovvio che mi infervoro, per così dire. Hai resistito al mio sfogo, ci sei ancora, Nicolò? Eccomi, certo. Allora, per portare avanti la conversazione, che tu già mi hai dato spunto per quanto riguarda non solo per il titolo, ma hai parlato dell'aspetto dell'informatizzazione, che per me è la maledizione assoluta. Hai letto la mail? No, non ho letto la mail, perché non è orario di lavoro e perché onestamente ma io, sai, adesso con le mail siamo più fortunati, arrivo a casa, mi metto lì, mi leggo le mail. No, non esiste al mondo. No, anche questo è un aspetto che sono riusciti ampiamente a raggirare per portare a una continuità di lavoro costante, ma a quanto pare siamo felici così. E quindi a te la parola a questo punto, per dare anche uno sguardo al famoso digitale, che tanto deve aver agevolato la nostra vita. Per me ha agevolato lo sfruttamento. Comunque, lascio procedere a te. Sono assolutamente d'accordo con te. Ormai noi siamo sommersi, circondati di dispositivi digitali, dal computer, ma ancora più pervasivo sicuramente lo smartphone, che permettono un collegamento online costante, quotidiano. E questo però, ecco, permette, come diceva te, un sfruttamento a tutte le ore, quindi si è potenzialmente disponibili in qualsiasi momento. E questo non riguarda soltanto il settore informativo, come per esempio quello in cui operiamo te e io, anche se facendo lavori molto molto diversi, ma riguarda anche lavori molto più umili e allo stesso tempo più privi di tutele, perché magari più recenti, come per esempio i fattorini delivery, che appunto sono controllati e monitorati attraverso i dispositivi, attraverso i loro smartphone, attraverso i quali vengono geolocalizzati, attraverso i quali il cliente può vedere in che luogo si trova il proprio fattorino, quali sono le sue più recenti prestazioni, quanto è stato votato dalla comunità dei clienti, può lasciare una recensione. Ecco che quindi i dispositivi, come dicevi tu prima appunto, diventano dei veri e propri dei veri e propri strumenti di sorveglianza tra i lavoratori. Sì. E quindi si fatica a vedere quale sia il capo, il proprio padrone, ma sicuramente siamo diventati tutti quanti, in una qualche percentuale, capi dei nostri colleghi, perché appunto ne sorvegliamo la prestazione e stiamo attenti a quanto lavorano e a come lavorano. Tremendo. Lo stesso cliente è diventato, se vogliamo, un po' un capo del lavoratore, ecco. E se tu vuoi rivolgerti per le tutele, c'è l'algoritmo, c'è l'impossibilità più totale di avere comunicazione, di avere informazione. Com'è facile avere informazione e comunicazione per determinati aspetti, è impossibile e difficilissimo per altre. Non so se avete fatto caso a tutto ciò, e quanto è arzigogolato anche conoscere i propri diritti e quanto sia difficile. E del resto, che bella è l'informatizzazione, che rende tutto più comodo, a parte che rende anche una distanza tra di noi incredibile, una solitudine sociale, una mancanza di comunicazione. E purtroppo le giovani generazioni, io ho 55 anni, quindi ho sfiorato un periodo intenso di lotta al quale ho aderito in maniera attiva, ma le giovani generazioni purtroppo tutto ciò l'hanno solo vagamente sentito, per cui non sanno quello che in precedenza poteva essere, e quindi quanto mi fa soffrire vedere una sorta di normalizzazione a tutto questo. E mi fa piacere, sento che tu sei più giovane di me, che tu abbia l'impegno, la volontà, insomma, di diffondere questi contenuti in maniera pubblica attraverso l'arte, attraverso il teatro, che culturalmente è uno dei linguaggi più completi. Lo spettacolo, come ho già detto, è domani alle ore 21. Sarete voi due sul palcoscenico, Nicolò? Sì, esatto. Ok, e quindi è una conversazione, sono momenti, sono... Com'è strutturato, senza svelare troppo, lo spettacolo? Diciamo che lo spettacolo comincia come una conversazione. Io e Lorenzo poi abbiamo due opinioni sul tema del lavoro molto diverse. Io ho un'opinione più critica, mentre quella di Lorenzo è disgraziatamente l'opinione di uno che vuole essere, che vuole mettersi in gioco, ecco. E su questo noi siamo assolutamente in conflitto e abbiamo pensato che questo conflitto, piuttosto che consumarsi nel privato, potesse essere appunto giocato e rappresentato in un'arena pubblica come il teatro, perché era foriero di riflessioni interessanti anche al di fuori della nostra frequentazione. Certo, e fra l'altro ho intuito, leggendo un po' alcuni passaggi, vi è comicità e ironia anche all'interno di questo lavoro? Sì, assolutamente, è uno spettacolo che affronta il tema del lavoro non in modo serio, altrimenti sarebbe uno strazio, ecco. E poi, come tu ben sai, da attore è molto più difficile far ridere che far piangere, per cui magari ti rimane più impresso, hai capito? La risata è sicuramente uno strumento pedagogico di potentissima trasmissione, ecco, i messaggi, è un modo per creare un veicolo appunto tra spettatore e attore, però sì, ecco, appunto, non è uno spettacolo, non è un'avvertenza sindacale, infatti, né tantomeno, ecco, quindi non è, si ride, ecco. Che ruolo ha il lavoro nelle nostre vite? È una parte della vita o è la nostra vita stessa? Quanto ci definisce il lavoro? Chi siamo fuori dal lavoro? Per la nostra generazione i confini tra lavoro e vita sono assolutamente sfumati, direi molto molto sfumati, per non parlare poi di come hanno strutturato il lavoro da casa, per quanto hanno cavalcato poi con la pandemia la possibilità di restringere ancora di più, vendendola come se fosse un motivo di libertà ulteriore, no? Il famoso smart working. Quindi ce ne sono di motivazioni e di intuizioni per approfondire quello che è, oltre che per il diritto, per la sicurezza, le morti bianche sul lavoro, altro argomento tremendo, ma il diritto al lavoro, il diritto sul lavoro, i tempi del lavoro, le retribuzioni sul lavoro, insomma, che dire, meno male che abbiamo ancora la possibilità di urlare queste cose al microfono, perché se andiamo avanti così magari ci chiudono anche quelle, ecco. Comunque, solo quando lavoro sono felice, di e con Lorenzo Maragogni e Nicolò Fettarappa. Nicolò è stato qua con noi per dare anticipazione allo spettacolo che sarà sabato 27 gennaio, cioè domani alle ore 21. Altro da aggiungere che il mio infervoramento ha omesso, Nicolò? Abbiamo detto quasi tutto. Abbiamo detto quasi tutto, quindi io chiuderei invitando tutti quanti a licenziarsi e a venire a vedere lo spettacolo. Bello, bello, certo. Confermo e mi unisco al tuo invito. Grazie Nicolò, una buona giornata. Grazie a voi. Ti aspettiamo a Bologna. Ciao. Ciao. Grazie mille, ciao. anche ringraziando Nicolò. Bello, finalmente ho sentito nuovamente il termine i padroni, non il datore di lavoro, l'imprenditore, i padroni, perché chi vive con il lavoro altrui, grazie al lavoro altrui, è il padrone. Pronto, fine del discorso, che stiamo a edulcorare. I padroni non ce l'hanno neanche il cane, mi ha detto una volta un'imprenditrice, eh? Brava! Invece io continuo a chiamarli con il loro nome, insomma, vabbè, poi dopo io sapete bene come la penso, e per me è una grandissima tragedia della seconda metà del Novecento, e tanta più grande tragedia è stata la caduta del muro di Berlino, per cui... Certo, con tutte le contraddizioni mi prendo le responsabilità di quello che sto dicendo, però era sempre uno spauracchio che era là. E i motivi di progresso, di vita, sì, la parola vita vi è stato solo quando almeno una socialdemocrazia dialogante con le parti di sinistra era presente per dare una dignità, per dare il contratto, il potere contrattuale al lavoro, per portare il diritto e la sicurezza sul lavoro. Purtroppo che parole desuete che sto usando. In mancanza di tutto ciò, poi tra le classi lavoratrici c'è anche chi tristemente si abbandona a un abbraccio col braccio teso, scusate il gioco di parole, purtroppo tremendo anche questo aspetto, eh? Vedrai che vi porta bene quell'abbraccio lì, sicuramente vicino a voi, sicuro! Solo quando lavoro sono felice, di e con Lorenzo Maragoni e Nicolò Fettarappa. Sarà domani, l'ho già detto, no? Sabato 27 gennaio 2024 alle ore 21 all'ITC di San Lazzaro. La nostra rubrica procede subito dopo la pubblicità. Continueremo a essere in scena sui 103.1. A tra poco.